mia caso. Ebbene, Gio Maria. Io che non sono uscito, un po' dormito fino a tardi perché io voglio tardi. E sono in pigiama, sono in pigiama. Però si sente il caldo da fuori, pare che siano 26 gradi all'ombra, tendenti ai 27 nel pomeriggio. E caldo sta facendo, io pure sono in pigiama, schiatta, a piedi con le giabbatte, cosa vuoi fare, c'è un caldo da morire, sì, qua ci piomba e caldo, e per cui... Adesso comincia magari a stare più bene, là. Adesso più va più fresco c'è, però durante il giorno c'era molto caldo, ecco. Mi sono coricato un poco, catta, e ti dico che c'era caldo. E poi mamma mi ha detto che dovrebbe essere oggi un pochino di vento di terra, a quanto ha detto lui, e dice forse vento di terra, se vento di terra vuol dire che il mare è piatto e ci sarà stato un saccaccio di gente al mare oggi, un sacco, sarà la platamona mia. Ma a te conviene, ma noi non ci andiamo al mare, io il mare lo vedo solo da lontano, il bagno me lo faccio dentro la vasca da bagno, sono da un saccaccio d'anni che non entro in mare io, ma un bel d'anni. No, mamma invece le piace stare un'ora, due ore in acqua, capito? Le piace proprio stare in acqua, soprattutto se è calda, perché si affrettano, ma se come quella di Platamone che è abbastanza calda, si sta molto molto più di me. Ehi, a chi piace? Cioè, ci sono anche quelle persone che piace rimanere molto tempo in acqua, capito? Io da quando mi hanno sfasciato la cabina, lì a sei soppette non sono entrati, non entravo nemmeno in mare io allora, è da parecchi anni, me lo vedevo da lontano così e basta, però non entravo mai in acqua, non mi piace, non mi va, ecco, e per cui preferisco entrino gli altri, ma io non ci vado a mare per quello, non mi fa. Magari vado, non so, a Platamona come tante volte siamo usciti, mi seguo al bar, lo vedo il mare, è vicino, però andarci a bagnarmi i piedi assolutamente no. Pensa che alla Pelosa, siccome sta sparendo piano piano la sabbia, no? C'è una striscia stretta di sabbia alla Pelosa, hanno fatto un bel di divieti, hanno fatto, allora prima di tutto vietato mettere gli asciugamani a terra perché trattengono sabbia, poi bisogna lavarsi i piedi quando si è prima di uscire dalla spiaggia, bisogna sciacquarseli perché sennò rimane sabbia sotto, sai, quando sono migliaia di persone trattengono molta sabbia. Poi vabbè, vietato fumare, quello si sapeva già in altri posti, e hanno vietato anche contro quei poveracci il divieto ai venditori ambulanti, mi avevo comprato, e quelli poveracci devono lavorare, però, ma quello non c'entra nulla con la sabbia, quella è una cattiveria loro. E a me sembra che vogliono fare soldi dappertutto, da tutte le cose, capito? Certo, ti sembra allora uno dove ci deve coricare quando va al mare? Sotto l'ombrellone. Certo, l'asciugamano lo deve mettere, no? Certo, allora non può mettere nemmeno l'asciugamano sotto l'ombrellone perché ma sostiene e ci attacca la sabbia. Ho capito io. Purtroppo mi stanno uscendo tante di quelle cose che non capisco perché. Per salvare la sabbia, dicono. per esempio puoi mettere le spiaggine, le sedie, oppure puoi mettere sotto l'asciugamano, puoi mettere una di quelle stuoie che non trattengono la sabbia, capito? Oppure, come ce l'ho io, il lettino pieghevole in alluminio, si mette l'asciugamano sopra, si tiene sollevato dalla sabbia, un bijou è quello mio. Lo puoi orientare come puoi tu, lo schienale, e mi addormento anche sopra, su quello lettino, sai, è veramente comodo. Certo, pesa un pochino, pesa da portare, però è comodo. Poi sempre la pelosa vogliono in futuro eliminare la strada, proprio che credo quella che si affianca alla propria spiaggia, no? E mettere questa specie di, com'è che l'hanno definita? Una specie di pontile di legno sollevato da terra con su pasticcio, guarda, ma quando mai devi eliminare la strada che è al lato della pelosa? E non ci va nessuno, se no. Voglio mettere questo pontile sollevato, ma così fanno fuggire tutti me. Certo. Non se ne capisce più, gira a giro, possiamo andare più a mare. Oppure se vuoi andare via, attenersi alle regole che stanno mettendo. Non lo so. Io penso che non è che uno si metta asciugamano, si trattiene la sabbia, ho capito io. Forse non è mai esistito, mentre che adesso esistono queste cose. Vuol dire che la sabbia se ne sta dando, se la sta portando fuori. Non è che ce la prendono degli asciugamani la sabbia, roba da matti. Te lo sto dicendo, adesso non possiamo andare più a mare noi, no. No. Non possiamo andare più, devi pagare e devi asserirti alle regole se vuoi andare a mare, se no ciccia. Lascia gli altri a fare quello che voglio, io già non ci vado, per cui non mi trattengo di sabbia. Poi questa storia degli asciugamani l'hanno fatta anche per i furbi, che dalla notte prima o dalle 6 di mattina mettevano 10 asciugamani a terra in modo da prendersi mezza spiaggia, capito? Lo facevano come quelli che mettono l'ombrellone dalla notte prima, e in modo da avere il posto già occupato, capito? Siccome ce ne sono i furbi, sia sardi che turisti facevano così. Allora niente asciugamani, capito? Vabbè, il mondo dei furbi. E a quanto sento, ogni tanto c'è qualcosa nuova, ma a Platamona non è così però. No, a Platamona no, però è vietato buttare le sigarette per terra, nella sabbia. Pensa che un ragazzo ce l'aveva, la stava fumando, la solo poggiata sulla sabbia, no? Poggiata, però era accesa. Beh, sono passati i vigili urbani e dicendo che l'aveva buttata nella sabbia, gli hanno fatto non so quanto di multa, lo sai, e quello era turista, e non ci sarà più tornato. Beh, si è fatto, mi sembra proprio una cosa assurda che uno, vabbè, non ne deve mettere, non ne deve buttare circa in terra, nella sabbia. Ci saranno i contenitori dove la spegne e la può buttare. Certo che non è una cosa giusta che si butti la cicca per terra, e certi lo fanno anche apposta, se ne fregano, capito? Anche accesa, passa uno ai piedi nudi e si brucia i piedi. Spegne la sigaretta, però non buttarla così. Ci saranno i contenitori, la mettono a patto, tipo un pacchetto di sigarette vuoto, ce la butti dentro quando la spendi, se trovi il container, il posto adatto, e ce la butti. No, per il resto, mi stanno sognando poco di cose, cazzo, la butta, boh, cazzo, perché ha buttato, io via, gira, gira, cosa sto dicendo? Noi adesso per andare a me dobbiamo pagare, mentre che prima non ci pagava mai, era libera, poteva andare chiunque dove gli pare, gli piace, ed era tutto diverso, invece adesso stanno cominciando a uscire tutte queste leggi che gira, gira, non ci possiamo nemmeno andare perché dobbiamo pagare, a peggio non abbiamo, dobbiamo pagare anche il parcheggio per andare a mare. Ehi, tra poco, hai visto la rotonda, no? Il vialone è alberato, ho paura che anche lì mettano a pagamento, lo sai, oppure facciamo così. Ma poi lo scempio che hanno fatto al quarto pettine, al quinto pettine, hanno fatto uno scempio al quinto pettine, uno scempio. Ci sono pochissimi parcheggi, poi hanno fatto questi stazzi per le pecore fatti con le canne, no? Che occupano spazio inutilmente. Poi hanno fatto questo pontile per scendere in siccome c'era un gradino, no? Dal cemento alla sabbia, hanno fatto questo pontile che anziché dritto di legno fa tutto a zig zag finché arriva la sabbia. Ma chi è che cretino che ha fatto una cosa del genere? Dice che quello è, l'ha voluto fare il sindaco di Sorso. Paolo, c'è il sindaco. Chi si era andata prima a fare leggi e fa quello che vuole? Io detto, boh, l'ho capito. Troppe cose. Già era un dettaglio prima, Però adesso magari è più pulito, però tutte queste leggi mi sembra una cosa che faccio quello che voglio, io già non ci vado, per cui sono tranquillo a parcheggiare. Io sono andato l'anno scorso lì a Plaza Mona e dunque sono entrato per andare a Porto Torres, ho girato lì dalla rotonda, ho fatto pochi metri e sulla destra c'è l'ingresso di quei bar dove c'era il lido, diciamo, e lì c'era il parcheggio, abbiamo parcheggiato tutto lì e sono stato bene ugualmente, dai, non mi hanno detto mai niente perché ho visto che quello era un parcheggio e per cui ce l'ho infilata lì e siamo stati la sera lì. E invece da quando svolti, no, per andare a Porto Torres, dove sei passato tu, sulla sinistra è tutto vietato, tutto divieto di sosta e di fermata. Prima non lo so se c'era, francamente, ma ho notato i cartelli, pensa che in pochi metri hanno messo roba di tre cartelli, divieto di sosta e di fermata. Tutto divieti sta diventando il mare, però è tutto divieti. Comunque è vero, a parte adesso per le sigarette, a Porto Torres allo Scoglio Lungo, siccome lì tutti fumano, la sabbia era uno schifo, era tutto misto, sabbia e sigarette, gira c'era più sigarette di sabbia e c'era una puzza nella sabbia di sigaretta e di nicotina. Mamma mia, poi anche lì hanno vietato di fumare in spiaggia. Se va a mare non deve fumare. Se c'è l'ombrellone che ci siede lì, non deve fumare. Ho capito io. Ma te lo sto dicendo. Uno, prima che ce li alza, fa la legge e tu la devi rispettare. Se non ce le butte e bisogna pagare. Ehi, per carità, cose che non stanno facendo. Voglio fare soldi anche da quelle cose. Ehi, ehi. Vabbè. Dice che alla Pelosa metteranno a controllare che si lavino i piedi due guardie giurate, che non valgono nulla via le guardie giurate, sono a livello di coso. E se trovo che sassarese buriato dice ma vai e girami le scatole alla guardia giurata. No, ma almeno hanno messo le docce, qualche fontanella per lavarci i piedi oppure no? Ah, non lo so, io alla Pelosa non vado. E se ne uno come se li lava i piedi, se non c'è una fontana, una doccia? Quelli qui ci saranno le fontanelle, la doccia, se no che la sabbia su a piedi lui ci attacca e un po' cazzo, l'ho capito io. C'era qualcuno che ha detto avanti. Ma su vai avanti di piedi. Come? Ma su andi avanti di piedi. Ah, lo senti, puoi andare almeno a sorso, e via, accorgio come ti chiama? Alla pillella era. Allora, e poi a Toto, sotto veloce. Ciao comunque, buonasera. Fai due secche anche a te. Ti sono fette da poco di quei ciliegi. Dai, no, il fatto di fumare e buttare la sigaretta per terra, quello non ammetto io, ecco. La spegni e te la metti da una parte, oppure quando la spegni la butti nei contenitori, ma buttarla nella sabbia non ha cosa igienica, ecco, perché fumano tutti e per cui diventa un macello. Però fate queste, fumano e se la buttano così, non è che la spengono, così che passa qualcuno ci brucia i piedi. Ma infatti, no, vabbè, vedi che se la potuto io, se ne vai per il tempo. Poi per quanto riguarda l'asciugamano, questo non si può manco più mettere, mi comprerò un andraio così, ma. Allora, lo vogliono fare alla pelosa. Alla pelosa non vogliono più asciugamani, o meglio, se lo poggi lo devi poggiare su una stuoia che non trattenga la sabbia, o su un lettino, sai, di quelli sollevati da terra, no? Così, piccoli divieti, e metteranno delle guardie giurate a controllare. Sì, ma la gente ne dirà quattro, girarci le scatole di danno a quelli, tanto lo sai che non sono pubblici ufficiali, no? Diverso se ci metti i baraccelli o la forestale, allora cambia, ma no? Uffici urbani, e vado qui, tutto buon caso qua, sentiamo, ciao mamma, per domani. Allora, con la passeggiata ci sentiamo. Davvero, no, c'è andare alla Perosa, allora lui, vai a Plattamora e almeno lì l'asciugamano puoi mettere per terra. E non andare presto per prenderti posto a testare ombrellone, perché se ci sono le multe. No, io vado alla Madre, non mi è andato, io con la passeggiata. Sì, al mare, ma poi l'anno scorso me lo portava a permettere, quest'anno vediamo, là, non posso permettere di andare, vediamo un po', vabbè, ciao, ripeti Marco, ciao. Ehi, ciao Luca, ciao, da, sentiamo, vedo che il sole si è velato, va bene, e oggi ce ne siamo rimasti a casa, ieri siamo pidati il gelato, abbiamo portato da mangiare i cani, anche quelli che ci sono sempre lì, e così abbiamo, però erano molto accaldato ieri, proprio dentro la macchina erano molto accaldato, no? Eppure avevo una camicia estiva sottile mi, senza maniche, niente, avevo caldo lo stesso. Ho visto che ieri siamo usciti a fare la spesa e per cui avevo la maglietta ancora a maniche lunghe e il giubbotto quello fine avevo. Beh, ti dico che in macchina non ci poteva stare. Infatti arrivo qua e mio figlio mi dice, ma non c'è qua il caldo, dice, con questa roba. E io ho detto, questa mattina c'era fresco, così che io me lo so messo, adesso c'è molto caldo, in macchina non ci poteva stare. Come oggi pure c'era molto caldo, però io sono in pigiama in casa, che stamattina sono sceso in campagna, c'avevo una maglietta a maniche lunghe e un gocco mi sono messo, e quelle accollate, a mezzo collo, là. E si stava non tanto bene perché c'era molto caldo, però se mi spoglio il becca subito. Adesso vediamo se entra qualcun altro, sono le 7:10, vediamo un po'. Io devo finire anche di mangiare, ho mangiato alle 5:30, ma non ho mangiato il dolce. Magari mi prendo il dolce, dai, poi rientro. Se entra qualcuno, ma lo che non siano tutti al mare, a mostrare le chiappe chiare o in campagna, boh. Beh, se devi uscire, ancora già è presto, va. Così che l'altra passeggiatina ci vuole, dai. Sì, si può uscire, tanto fa buio tardi, no? Io ancora non sono andato al mare perché non mi sono lavato i costumi, non mi sono preparato lo zaino, capito? E poi c'ho questa cosa, questa spada di Damocle. Io devo fare la risonanza magnetica per vedere cosa c'hanno gli occhi e cosa c'è il nervo ottico. Devo andare il 31. Il 31 di questo mese devo andare, fra pochi giorni. Almeno mi dicono cosa c'è, se posso operare con laser, gli occhi, insomma, qualcosa devo sapere, perché sono così, sempre sulle spine. Fate gli occhi, ha fatto uscire, mi hanno operato tutti e due occhi alla cataratta, però sembrava stava andato bene, ma io ce li ho sempre lacrimando, sempre lacrimando, specialmente il destro. Il fatto è questo, che mi metto un paio d'occhiali per il sole e mi calma le lacrime. Se me li tolgo senza occhiali col sole non mi dà fastidio, non vedo, perché se mi chiudono gli occhi sono costretto di mettermi gli occhiali e non lacrimano. Però adesso per esempio che non li ho in casa e mi stanno lacrimando, però me ne metto molto spesso in casa anche, capito? Però se non mi lacrime, quando comincia a asciugare, a toccare, dopo mi fanno più male pure, capito? Buonasera figlio. Buonasera padre Gianfranco. Pace e bene a tutti. Allora, qua sto caldo, dica che domani cambia di nuovo. Abbo, la nuova ha dato per domani sera tuoni e fulmini, il meteo della Nuova Sardegna, per domani sera. È tempo strano, ancora non è stabile, ma non so se lo sarà mai, perché ormai non abbiamo più le stagioni stabili, compresa l'estate, tutto a spalle di caldo e di freddo. Infatti. Ciao Giomari. E allora, cosa c'è, l'apparecchietto nuovo? Buonasera Zaffra. Com'è? Come ti sta arrivando Zaffra? No, va benissimo Giomari, va benissimo. Non stavo guardando, ma non è disponibile, ma costa 60 euro, quindi è veramente poco come apparecchio. Costa veramente poco. Costa bene, ma adesso hanno aumentato, hanno aumentato, adesso sono sulle 90, 95, una cosa del genere. Mi è piaciuto, 40 canale AM/FM, ma va bene, dai. E quell'altro ce l'ho messo da una parte, cosa vuoi fare? Ma l'ho detto a Caglia, non buttarli, a metterlo a fianco, a parte, basta distaccare, che non ci sia il microfono e l'alimentazione, e lo posso tenere, però non vuole buttarli, questo mi hanno detto a Caglia. Secondo me non sanno neanche loro quello che fare, se leggi sono talmente, come dire, che se c'è una 500 vecchia ce la devi buttare, ma e comunque non la puoi usare, mentre invece non pago neanche il bollo oramai, che cose, guarda, allucinanti. Mi stava prendendo male la tentazione anche a me di prendere qualcosa, però io ero più orientato verso, quello 2000, credo che si chiami così. Marco, dove siamo esperto? Com'era, 2000? Ma ho omologato. Il CRT 2000. Bravo quello. Guarda, io non l'ho mai sentito dal vivo, non so che modulazione abbia. Io quello omologato inchiodato una persona, per esempio, so come esce, un po' barattolata, insomma, non è, con la geometria è già molto migliore, però Media Globe l'ha terminato, infatti si è guardato e non disponibile, purtroppo, sia sul negozio Media Globe, su Media Globe e su eBay, non ce l'hanno. Quei prezzoni 80, 90, 100 euro sono tutti venditori inglesi, lo vendono molto dall'Inghilterra, da noi ancora non ha preso piede molto e comunque lo faranno pagare di più anche da noi. Media Globe aveva fatto una bella offerta. Ehi, okay. Anche quello è un bel apparecchietto, il 2000, e c'ho anche due, ne ho ordinato questo qua e quelli 2000, c'ho anche quello 2000, già fra, è bellino, c'ha un saccaccio di funzioni, per male sono riuscito a metterlo a posto anche quello. E per cui qualche volta me lo metto in macchina, ecco perché ne ho preso due, ce l'avevo, mi hanno fatto spendere altri soldi e per comprare questo baracchino omologati, adesso quegli altri erano omologati, boh, non ho capito io, non avevo bisogno di altri apparecchi, però siccome mi piacciono averli, allora ho dovuto prenderli tutti e due. Questo CRT 2000 come esce di radio? Te lo ricordi? Già l'hai sentito già, c'è bene come questo, la stessa cosa, vanno bene. Oh, non me lo ricordo, se l'abbiamo provato non me lo ricordo. No, perché Gianfranco era interessato se potessi magari, anche non oggi, domani, attaccarlo e glielo fai sentire. Dai, riprendete un attimo che mi mangio velocemente una cosa dolce, riprendete voi. Adesso l'ho ritirato dentro la scatola, se non l'avrei attaccato, e magari capita l'occasione di fartelo sentire. Ma mi hanno detto che esce bene, per cui che sempre con il corpo originale suo, fanno bene, dai, fanno bene, tutto lì. Ok, riprende già fra. Perché è carino quello, c'ha anche i toni, eccetera. È così. Ma a pensare che volendo si poteva anche mettere, fare tante cose, anche con semplice omologato. Invece il fatto che oramai non c'è più nessuno è un macello. E si può anche modificare quello lì 2000, però io non ne tocco, perché apparecchi miei proprio non ho mai aperti per modificare, eccetera, basta la potenza giù e i canali giù, boh. E per così sono stato io, per cui quello lì mi sembra con la modifica esce con 15 watt, però siccome a me non mi interessa non lo tocco per nessuna ragione, lo saranno. Mentre qua invece è tutto diverso, però questo qua mi piace di più, dai. Mi piace anche quell'altro, ma questo mi piace molto di più perché è più semplice, capito? Mentre quell'altro c'ha un saccaccio di funzioni, deve tra i menu, sì e là, certo, sono stato una mattina buona, ragazzi, perché non riuscivo a capire un tubo. E per cui fatelo mollato, ce l'ho stufato, già l'ho messo a posto, però mi sono stufato e l'ho messo dentro la scatola. Capita, a me piacciono le cose che si accendono e funzionano subito, quelle lì poi se non le impoffi bene è un po' macello. Perché gira c'è solo, se ti vuoi fare una chiacchierata c'è solo fame, se fa ascolto si fa una chiacchierata qua, si è tranquilli, sono persone tranquille e si fa, e si è soddisfatti, ecco, se non si è contenta. Un peccato che non utilizziamo magari più spesso le femme, comunque va bene anche qua. Io purtroppo ho dovuto rimunire la ricezione, cioè quando sono qua, ma adesso che si è aperta la preparazione tengo lo squalciato, però comunque non c'è problema, siamo sempre sul ordine del 9.10, 9.20, 9.25, non ci sono problemi, ecco, anche mettendo lo squalciato. E come ti sono arrivato il segnale? 9.25. Ma mi sembra c'è sempre la stessa cosa, perché quando attaccavo l'altro però sempre un 4 watt, non mi è piaciuta mai a me la potenza, no. Sempre 4 watt, e quello lì l'ho messo in trascatola e adesso l'ho mandato in pensione quell'altro lì, e quello era completo, magari aveva le bande, per cui un saccaccio di canale che poi non li usavo nemmeno quei canali io, rimanevo sempre su 40 canali e basta. Mi va bene, adesso mi va bene questo, boh, lascio questo tranquillo e pazienza, va. Già va bene ugualmente per la piccola chiacchieratina la sera, così qualche 10 minuti è anche troppo già fra. Sì, infatti, ma mamma, ci sono i francesi che arrivano più forti degli italiani, questi sono terribili. Adesso l'ho abbassato, ma anche fastidio. Ci sono, tanto è inutile modificarli, perché già lo sai, ho 4, 5, 6 o 7 watt, siamo sempre lì, prima di avere qualche cosa di consistente, ce ne vuole, dovresti mettere il triplo almeno, 20 watt, 25 watt, 30, per vedere qualche differenza. E poi un altro dei problemi, modificandolo, è sempre lo stesso, quello che ti incupisce la radio, perché il modulatore non ce la fa probabilmente, quindi tira lì, tira là, poi diventa un pasticcio. Meglio lasciarlo com'è. Al massimo, se non vuole, proprio c'è un primer anche su quello, può aumentare un pochino la radio, ma poi va bene com'è, ecco. Almeno io la penso in questo modo, non ho mai aperto un apparecchio, mai. E hanno funzionato sempre bene quello che ho avuto, e a modificare non mi interessava, magari il preamplificato sì, ecco, a mettere il preamplificato già li ho messi, e infatti non ci consiglio i preamplificati, così che io ho dentro la busta una parte che li tocca, non ne metto più, basta, già va bene così, per questa chiacchierata che faccio io già va bene così, il preamplificato, e cosa lo metto a fare, tanto direi che se non ne faccio più, non mi interessa. E se mi vogliono sentire così, se no lo faccio, lo devo fare. Per cui non conviene a toccare l'apparecchio, ecco. Se nasce con così, e così deve essere. E rimane sempre perfetto. Infatti a me, io non ho mai rovinato l'apparecchio, mai. Mi ne ho avuto io qui. Oh, in 52 anni ne ho avuto apparecchio, tu non hai idea, già fra. Ma un bebè, ma apparecchi costosi. Per cui no, adesso basta questo qua. Avevo il 9.900 ultimamente, l'anno scorso che l'avevo preso, 9.900, era piccolino, allora questo me lo metto in macchina. Allora, sai che quell'apparecchio in banda usciva 60 watt usciva, beh, l'ho dovuto vendere, me l'ho venduto perché non mi piaceva, perché era troppo forte. Sì, no, infatti a volte non conviene, non ne vale la pena. Questo qua io ti posso dire, questo che stai usando, qua registra addirittura picchi positivi, che non è una cosa così scontata come si pensa, però qua ti registra un bel picco positivo, quindi problemi di radio non è assolutamente da fare. Come la dovrebbe essere, tutti mi hanno detto va bene, 4 watt, arrivavo 4 watt, ma 4 watt vai un bel lontano, mi già fra, un bel, sembra così, certo, in macchina non è la resa come a casa, perché c'è l'antenna grande, per cui, però vanno bene, dai. E anche troppo. Adesso a 81 anni mi metto, oi, lo sarà già franno, oi. Oi, domani. Che te frega, se va bene, va bene. Lascia tutto com'è e goditelo. Non c'è certo bisogno di fare altro. Poi lo sappiamo, no? Su questa gamma, tutto su questa, ma anche su tutte le altre, non è tanto l'apparecchio, ma è soprattutto l'antenna, considerando poi che oramai gente col preamplificato, con il lineare, eccetera, qua non ce n'è più, perché sono pochissime persone che parlano, quindi non c'è neanche più il provare dei disturbi. L'unica cosa è curare molto bene l'antenna. Se uno c'ha un'antenna fatta in un certo modo, qualunque cosa ci attacchi va bene. C'ha ragione. E infatti è così, ma tu Ciro. Adesso per esempio avevo questo 497, che è bello da base, 40 canali, e c'ha anche le bande, un peccato veramente. Adesso invece l'ho mandato in pensione dentro la scatola, almeno con quello sentivo le bande. Qua non le posso sentire, però mi interessa. Già ho ascoltato troppo in tanti anni che ci sono, per cui lascio agli altri che ascoltino diversamente. Vai, va. Marco. Eccomi, ho sentito qualcuno ha chiamato, avanti. No, sento qualcuno col bip, boh. Vuol dire non è a Puglia. Ehi, no, va. Non dico di mettere in pensione gli apparati, perché basta uscire un po' più watt e non succede niente. Non succede niente, non vengono certo a casa a controllare. Quello è stato un caso eccezionale, quello di chi sei tu, perché faceva un TV feroce a molte persone di quella zona. E anche quello è vero. Anche quello è vero. No, ma a me la potenza, ripeto, non mi è mai piaciuta. E preamplificate le ho tolti, così che non l'attaccherò più preamplificate, non mi interessa. Questo 497 è bello magari perché è da base, capito? Fa 12 a 220. È bello perché c'ha le bande. E vuol dire qualche volta lo accenderò e lo devo fare. Tanto per che non si rovini, capito? Qualche volta già l'accendo. È bellino, ma è bellino perché da base attacco 220, c'è tranquillo. C'è anche le bande, per cui è un apparecchietto bello, dai. Per adesso rimane con questo e via. Ma questo 497 è nuovo oppure di vecchia generazione? Aspetta che lo cerco, che non ce l'ho presente. Intake Multicon 497. Già ci sono. Anche nuove ci sono. In Germania mi sembra che lo... È bellino, c'ha due strumenti. Il rosmetro e il wattmetro e il frequenzimetro già. È bello, un bel apparecchio, dai. E adesso provo a cercarlo, vediamo se me lo dà, se mi dà le immagini, dai. Ed è omologato. Vecchia omologazione, diciamo, ecco, perché c'ha gli anni suoi questo apparecchio, capito? Adesso con 4 watt questo, non di più, C'ha 4 watt d'uscita, magari se va in banda è chiaro qualche cosa in più te lo dà, ma poca roba, non di più 6 o 7 watt. Ah, ho capito qual è. Sì, l'ho visto. È vero, no? Questo ce l'ha, come si chiama? Ma non mi viene il nome. Eia, no, credo che ne avessero fatto uno nuovo, invece no. La Intake per la CB non ha più niente, lo sai. Portatili non ne ha più, ha solo un baracchino in catalogo la Intake. Speriamo che non chiuda. C'è un bre, fallo per avanti, basta. Oh, è lontano, non so chi sia. Controlle. Alla casa musa, mandalo, sta fra la c'è di. Sì, adesso bloccare lo spazio. Dovrà un controllo forse, dovrebbe essere intorno alla, all'S8, 8 con picchi di 9 giù di lì. E così, è così. E io anche io vorrei fare fuori qualche apparecchio, ne ho tutti qua, onestamente rimangono troppo spinti, però sono tutti HF ovviamente. Quindi vorrei diminuire un po' la popolazione di questi oggetti, e seppur nuovi sono praticamente inutili. Hai sentito Marco? Controlle 6-5, radio 5, signal 6. Niente, niente controlle, non mi sente. Meno di alla neuro i controlle. Perciò per lui già non ti sente. No, vabbè, la colpa è mia che sono sempre basso qua. Non posso usare niente io qua, non fa, sono in condominio. Chi ce l'ha preciso alla 497 a stanza di Marco? Quadrato. Ah, io ne avevo tre di questi qua. Uno l'avevo dato, uno l'ho preso dalla Germania e mi hanno fregato lì. Mi è arrivato ed era tutto smontato. Cazzo. Infatti ho aperto il pacco, ho visto che c'erano tutte le manopole mollate, tutte le manopole mollate, e i canali non camminavano, per cui io ho detto, ma cosa sarà che abbiano allentato tutto, una cosa strana, figlio è aperto. Sull'apertura dove c'era la vite c'era un sigillo, io ho tolto il sigillo e quando ho richiamato la ditta mi ha detto che ha ripreso indietro e mi ha detto che sia intatto il sigillo, sa che non me l'hanno rimborsato perché avevo perso l'apparecchio. Ah, te l'hanno mandato aperto e non te l'hanno rimborsato perché era aperto, così è. E perché io qua l'ho aperto a stringere le manopoline, no? E sulla vite, sul laterale, c'era un sigillo che io non dovevo toccare. Ma chi pensava che nemmeno letto l'ho io? Ho sfasciato il sigillo come ha aperto il tappo, il coperchio di su e non me l'hanno cambiato, capito? E allora cosa ho fatto? Ho preso un po' buio, ma prima almeno usciva la radio, però non riceveva. No, sta un po' buio, ma gliel'ho dato, mi sembra che non riceveva più. Allora l'ho ritirato e ce l'ho in magazzino, dentro la busta, tutto smontato. Però quello è normale, Gio Maria. Quando ho appena aperto istantaneamente le caravane garanzia, ma quello è per tutto, è per qualsiasi prodotto. Ma infatti, ma io non ci pensavo a quello, non ci pensavo proprio assolutamente. Sono stato fregato anche quello, però colpa mia, e se no io me l'avrebbero rimborsato, capito? Perché è stato pagato ora per fare, capito? E per cui non me l'hanno rimborsato, e vabbè, pazienza. Sono in magazzino, allora me l'ho lasciato, ma in caso mai si è rovinato questo che c'ho qua, detto un pezzo glielo. Perché sapere che era nuovo, si vede che era proprio, però non so perché l'hanno aperto e hanno mollato tutte le manopole, le vite delle manopole, la cintura dei canali non funzionavano, era bloccata. Quindi era già rotto di suo, mi sa. E allora quello me l'hanno mandato così, mi hanno voluto fregare, capito? E sono stato fregato. E ce l'ho ancora quello lì. Me l'ho lasciato per i pezzi. Però adesso, tanto non lo uso più, sono qua no. Che quando se mi gira, quindi ce lo butto nella moldezza. Ed era dalla Germania le pregio? Sì, dalla Germania, usato però. Usato, non bisogna fidarsi tanto. Poi sai, loro vedono l'italiano, dicono, ah, italiani, spaghetti e mandolino, lo freghiamo, te lo mandiamo, è peggio per lui, che l'ha voluto. Sì, perché in Germania, dove passava l'italiano, lo trovava un pezzo di legno per terra, già lo sai, forse per quello. Anche quello è vero. E comunque i ladri sono dappertutto, il ladro non c'ha nome, anzi non c'ha nazione, sono tutti uguali, dovunque vai. Cazzo, è un macello, infatti dove passa l'italiano trovo tutto fregato l'italiano, adesso magari sarà cambiato, ma mi sembra che adesso è peggio ancora. E adesso hanno fregato a me la Germania, e pazienza, 130 euro avevo pagato quell'apparecchio. Ma è così. Io che avevo messo l'intenzione di vendere il mio, invece no, vado a venderlo, sicuramente non ci guadagno, questo è un accidente. Infatti la scelta è sempre la stessa, tenerlo e buttarlo da una parte come attualmente, o darlo, però anche darlo a regalo, cioè una parete che non è mai usata, in pratica, è un delitto. Faccio questo adesso, però magari era un peccato perché potevi ascoltarle quando sono le bande eccetera. 40 canali cioè, si può modificare sì, però non l'ho voluto mai toccare proprio, deve essere integro l'apparecchio, perché questo l'ho comprato nuovo, capito? A toccarlo, a aprirlo raramente, ho aperto quello che mi è arrivato dalla Germania perché era tutto smontato, per carità, che fregatura alla volta, ma chissà che abbiamo fregato anche lui qualche volta a quello che mi ha mandato. Ma sì, c'è un po' per uno, fa male a nessuno. Il furto, l'anima del commercio. E allora, ma per carità. E invece a qualcuno era andata male comprando un Saturn, mi pare l'ho preso in due o in tre, mi pare in due. Dice sì, tutto perfetto, poi mi pare che gli era arrivata la scatola con il mattone dentro. Lo sai? Non mi ricordo di chi era però. Questo era tanti anni fa che capitava. Adesso devono stare molto attenti perché c'è anche scritto in grande, il venditore è responsabile di quello che fa, quindi se fa una cosa del genere ci perseguitano per truffa e poi la paghi cara. Poi c'è anche la garanzia se paghi con PayPal. Ma lo sai, e tanto in base a quanto costa l'apparecchio nessuno fa una causa contro di lui, ma a un certo punto non ne vale la pena, a meno che non sia roba grossa, amatoriale. Un attimino, volevo sparare un gatto. Ehi, capito Gio Maria, magari compri un baracchinetto, no? Costa 100 euro, ti arriva rotto, magari anche non ti vuole ripagare, nonostante le regole di PayPal, cosa fai? Fai una causa contro di lui, ti costa al minimo 300 euro già iniziare le procedure per la causa, non ne vale la pena, capito? Insomma, le fregature ci sono, la scatola chiusa e cosa puoi pretendere? È così purtroppo. Da fuori è così, magari se qua lo vedi come non è, tutto un altro discorso, ma comprato da fuori e occhi chiusi, capito? Ma ci sono stati, a Claudio mi sembra che l'avevo mandato un apparecchio, dentro questo pacco c'era un mattone e ce l'ha detto lui, forse è Claudio che Marco. O forse Gianni doppio room, o tutte e due avevano fatto un ordine ed è arrivato un mattone, e vabbè, prima o poi fregature ne capitano, e a voglia, poi per roba usata non ne parliamo. C'è gente che vende roba che non esiste, cioè prendono foto dagli altri siti, roba anche grossa, mia amatoriale. Poi gli mandi i soldi e non vedi nulla, sparisce, non risponde più al telefono, capito? Così succede. Perché bisogna conoscere la ditta e che ditta è, che ditta non è, ma se no non conviene, specialmente quando sono delle cose costose, molto costose, caspita. E come fai? Oh, magari ho 400 euro, vabbè, rischia, ma non comincia a parlare dei 1000 o 2000, eccetera, eccetera, è una fregatura veramente. Ciafra, cosa ne dici? Si è allontanato un attimo. Vedi, finché compri da una ditta ancora, ma quando compri dal privato è un pericolo, capito? Non sai chi è, non sai se è truffaldino, se è serio, capito? Il privato è il pericolo. È quello infatti, è proprio quello. Aspetta un attimino, ma adesso l'attacco un pochettino, vediamo un po' il 497 attacco, a vedere se funziona ancora. Eia, fai. Eccomi, tutti spariti? Marco? Eia, eccomi qua, ma qual è il 2000? No, oh, il 497 ho attaccato. Ah, quello grande, sì, funziona bene, ti sento bene. Credo che abbia attaccato il 2000, dai. Vuoi fare delle prove MFM SSB? Dovrebbe funzionare bene, dai, passa in FM. Sì, ja. Il problema della banda laterale è sempre quello che... Aspetta un po', che... Ecco. Quando si è in più persone con apparecchi non professionali, ma baracchini, bisogna un po' barcamenarsi per cercarsi l'un l'altro, centrarsi l'un l'altro. C'era anche Uranio, ci sei ancora? Francesco, ci sei? Vabbè, ci siete? AM, passa in AM. Era rimasto in USB, dai. No, sono qua, sono passato. Non riuscivo, strano è. Strano che non riuscivo a accedere. Sì, vi sentivo, sì, però non era perfetta la radio. È normale, Gio Maria, con quegli affari è normale. Io ho sentito sempre bene, ma è strano, è certo che da un apparecchio grande è un baracchino e la differenza c'è. Buonasera, è paura. Buonasera, ora è 6 agosto, è quasi 9 e la radio già è buona, dai. Buona, ciao Maria, ascoltalo bene, c'è un'alternata che fa paura. Chi, Urani? Prova a mettere a portanti, Urani. Adesso è di meno, ma prima c'era, forte pure. 50 Hz, alimentazione. E poi la radio va e viene, ogni tanto ti abbassi di radio, Uranio, lo sai? Diventa come satura o bassa, non so definirlo. Sparito di radio, mi? No, io lo sento sempre, ma è tutta alternata e... per carità. Adesso l'alternata supera anche la radio, però c'è qualcosa che non va lì, c'è qualcosa che non va, non devi uscire così un po' che ti alzi e abbassi di radio, l'alternata adesso è così, Gianfranco, mi è testimone, lui ha l'orecchio fino a me. Beh, ma si vede che un'alternata sta entrando sul microfono, poi la mia voglia di abbassare e alzare, ma c'è una filtrazione della modulazione pissima. Quando aumenta poi va anche fuori va molto fuori, iniziano anche fenomeni saturativi. Da... Sì, Gian Maria. Mette la portante solo. Va bene? Perfetta, va bene. Ci c'è solo la ventola e basta. Eh sì, perché ci sono tanti apparecchi accesi qua, come sempre, no? Però l'alimentazione è super filtrata e insomma è a zero, garantita a zero riflesso. Va bene. È uranio infatti, prima era di meno, dopo ha aumentato, ultimamente ha aumentato, non si capiva proprio niente, superava infatti come detto, ma superava la radio. Evidentemente dice, ma da parecchi giorni che lo sento lui, si abbassa, aumenta, abbassa, aumenta. C'ha qualche cosa con l'apparecchio ora? Alternato, non c'era, però non è precisa la radio, Marco. Guarda, questo potrebbe essere già un passaggio migliore perché l'alternata mi sembra quasi sparita. Provo a attaccare, metti portante muta. Ma mi pare di non sentirne più, Gianfra. No, l'alternata c'è sempre, c'è un fortissimo effetto di saturazione. Tanto è vero, se noti, quando tocca appena il microfono per strusciarlo, che si sente che la sua amplificazione è esagerata. Avendo, adesso sono fisso largo, ma se ci metto un pochettino più stretto, praticamente inizia a distorcere. Un apparecchio che sia leggermente più stretto distorce parecchio. Comunque Francesco, è capibile, niente di che, è capibile, poi soprattutto nel primo passaggio sembra abbastanza buona, non è che non si capisca, capito? Magari è un po' spinta, ma già andava bene, ok. Ma oggi Torre Squalo, tutti al mare a mostrare le chiappe chiare sono, Bacchisio, Torre Squalo, non c'è nessun altro, no? A quanto sembra, evidentemente... No, io Bacchisio dovrebbe essere già a casa a quest'ora. Evidentemente si sta facendo il rinfresco, si sta facendo. Torre Squalo, quello è evidentemente sta pedalando ancora, lui ci fa la pedata in bicicletta la sera. Oh, fa bene la salute, cosa che avrei dovuto fare io invece. La bici me la sono venduta 2 giorni dopo. Mi sono sgomentato, ma sono rivenduta la bici. Purtroppo non... Preferisco camminare a piedi se proprio devo camminare. Se sono costretto a camminare, potremmo anche dire. Ma Natalino non sta mai entrando. Natalino, ci sei? Marco, tu dimmi una cosa. Dimmi tutto. Ma tu sei più grande di Gian Maria? Io? No, io ho 46 anni. Il più giovane sono io. Il 10 febbraio ne ho fatto 80, sono entrato in 81. Ma speriamo di continuare sempre così. No, a me la bici non mi è piaciuta mai, solo da bambino, ma poi non ho voluto mai fare sport, né nuoto, né tutti quelli che mi hanno proposto, e quindi sono abbastanza messo male fisicamente, molto legato, molto, sto ingrassando pure, purtroppo non c'è la forza di volontà di reagire, quindi me ne rimango così. Ti vendo la mia, Marco, io lo sto usando poco, ancora nuova. Mi sembra che ho fatto da quando l'ho presa, già un mese, e cosa avrò fatto? 10 km, non di più. Ma quella elettrica? Ecco, elettrica è troppo comodo, bisogna sforzare i muscoli. Certo, se vai piano, pesa, mentre si aumenti dopo, più pedali, più veloce, certo. ma ancora sto facendo la pratica, perché da parecchio non prendevo una bicicletta, per cui qualche sbandata c'è, per cui la devo abituarmi a far andare dritta bene prima di andare fuori. Chiamali, che marca è? Che marca è? Che la guarda? Un Olmo. Ma cos'è, un mountain bike da passeggio? Ma è una bicicletta da donna, però l'ho presa, perché l'altra era troppo alta e non ci arrivavo. Siccome io non sono molto alto, sono basso, allora ho dovuto per forza prendere quella da donna, però adesso con quella già ci arrivo. È bella, bisogna prendere un po' di pratica, ecco, però è bellissima, cammina parecchio, quella fa quasi 30 km all'ora. Massimo 25 come normativa. Ma qual è quella? Io sto guardando qua, ho una lettera donna, costa 2340, possibile? Ci saranno aumentato, hanno aumentato parecchio, la stessa che ho preso io, siccome erano in offerta, ce ne dovrebbe essere un'altra solo, erano due, uno l'ho presa io. Adesso mi sembra che costi 680, 690 mi sembra. No, io l'ho pagata 479 euro, in offerta è. No, quello che sto guardando io costa 2340, quindi 2000 euro e 340. No, io infatti ho detto, caspita, è possibile che sia scontata. Questa è 2340, quella che sto guardando io, sempre della Olmo ed è da donna. Ma Gio Marì, da Ushan l'hai presa? Come? L'hai comprata da Ushan? No, dai, l'ho presa, a Foggia. La mia è proprio sportiva. C'è le luci, ha la luce anteriore e posteriore, c'ha le frecce posteriore e anteriore, c'ha il clacson, no? C'ha il cambio automatico, è perfetta, è proprio sporto, è bellina, è bella, veramente bella. No, io le marche poi non le conosco, invece alla fiera di Sassari, non so se l'ultima o la penultima, avevo visto questi scooter elettrici, proprio scooter elettrici, solo che avevano dei nomi, marche mai sentite, cioè non era Piaggio, Aprilia, nomi, magari dall'oggi alla domani chiude la ditta che la porta e non trovi i cambi, non lo so. Poi colorate, tutte strane erano un po'. Vabbè. Olandese la mia, dall'Olanda. Ah, lo stile olandese, sì. Olandese tipo stile, ok. Anche le frecce, caspita. Sì, anche il classo c'ha, mentre sto dicendo. Poi me l'ha data completa, c'è anche il cestino davanti e il bauletto di dietro con la chiave e tutto, capito? È correlata, c'è tutto, ecco. Buono, dai. Se funziona bene. L'importante è trovare poi le batterie di ricambio una volta che si esaurisce. Quello è il coso, capito? Perché magari una marca più nota ti dà la batteria sua di ricambio, magari quelle di quel prezzo, non lo so che batteria monta, se si trova uguale, capito? Ma io ne ho visto parecchie uguali, e ce ne sono anche più piccoli. Ce l'ha sotto il sedile la mia, è lunga, proprio tocca il sedile le cose della batteria, perché il sedile ribalta anche, capito? C'è un gancetto, lo tiri su e si alza, dove, che poi c'è una maniglia, il coperchio della batteria e lì c'è l'attacco per il caricabatteria, capito? È una batteria a piombo, capito? Da 250 watt, per cui va bene, dai. A piombo. A piombo sono. è una batteria a piombo, non è a litio, è a piombo. Ci sono quelle a litio, ma ce le hanno oppure sotto il bagagliaio dietro, oppure davanti dove quasi arrivano i ginocchi, capito? Sotto il manubrio. Ah, ho capito. Non sapevo che le facessero al piombo, dato la scatapulata che hanno, ecco. Io sono abituato un po' male, sono abituato a quelle all'itio. Infatti ne stavo guardando una e probabilmente prendo, quindi faccio, ne ho di bici, ne ho già due, questa sarebbe la terza. Una è da corsa, va con mago, però quella è, come dire, messa da parte perché è così un ricordo quasi. Poi c'ho una mountain bike che uso spesso. Adesso ne vorrei prendere una elettrica, però ovviamente di livello, diciamo, come dire, da cross proprio, anche se poi sullo stradato lo darò poco perché insomma anche alla mia età la schiena è a pezzi, tra un colpo qua, un colpo là, però una bici comunque di livello medio alto, dai. Con 600, 650 ci sono e poi ci sono tutti i prezzi. E per cui puoi guardare sul computer, oppure se no vai lì in Viale Porta Torre, oppure lì a Pedranieta dove sono le poste, lì per andare, e dunque una strada 11 mi sembra che sia quella di blu, insomma dove ci sono le poste lì. C'è un negozio grande che è abbastanza assortito, anche lì mi sembra che ci sia, no? Sì, scusa Marco, no, guarda, li conosco tutti da quando ero giovane, quindi ti puoi immaginare, io sono ciclista, come dire, sono stato anche ciclomatore, quindi ovviamente sono tutti quelli che erano aperti e che adesso sono chiusi, anche quelli che sono aperti adesso, ma lo prendo là fuori, non è... Una bici che puoi comprare qua, capito? Già fuori costa, stiamo parlando di cifre intorno alle 1.400-1.500, e nel nostro, diciamo, settore è già una bici media. Se poi vuoi una bici utilizzabile anche con caratteristiche particolari, arriva anche a 6.000 euro in una bicicletta. Florenzano! Non c'è più, credo. No, io mi ricordo una cosa da bambino, no? Avevo bisogno di un pezzettino della bicicletta, magari roba di bulloneria, no? Sono andato a Florenzano lì, pare fosse via Brigata Sassari, o giù di lì, se non sto sbagliando io, e avevo chiesto se avevano su quei pezzi, e quello dice, ma la bici l'hai comprata qua? E io no, e allora pezzi non ne abbiamo, capito? Quindi da bambino mi ha dato un crepo, bambino e ragazzino mi ha dato un crepo notevole quella risposta. Gianmarì, quello probabilmente aveva molti clienti allora, se rispondeva così. Cosa? No, quello si voleva fare nuovi clienti, capito? Quando rispondi così un commerciante vuol dire che vuole chiudere. Una cifra del genere io non l'avrei mai espresso, assolutamente, che faccio? Oh, questa perché c'è stata un'offerta e ho dovuto prendere, però c'è anche questo, che mi è arrivata un po' il bauletto indietro e graffiato. Allora abbiamo fatto che mi è arrivato il bauletto graffiato e il cestino leggermente piegato, e quello si sa del trasporto come fanno, no? Quelli che trasportano le cose le buttano così alla me ne frego, e va bene, dice, va bene, dice, con quel graffio che c'è, dice, li mandiamo 20 euro e se li fa aggiustare, no? Come ha detto. A te per no, dice, rimanda tutto indietro, dice, e le rimborso i soldi. Catta, io avevo buttato tutto l'imballatura, perché l'imballatura era grossa, non mi conviene, gira, me l'ha chiusi, tanto il bauletto non si vede con le graffie, per cui ho mandato, vabbè, ho lasciato perdere, e li ho mandati a quel paese. e me l'ho lasciata così, ma è un graffietto che non ci nota quasi, capito? Giovanni, sono anche pesanti quelle, poi al piombo, quanto pesa? 50 kg? Qual è l'idea del per Marco? Oh Gianfra, però Gio Maria ha detto che la forma della batteria è allungata di forma, è una forma lunga. Infatti ho detto, dubito che sia il piombo, sarà una forma allungata. È lunga, infatti la batteria è molto lunga, è grossa pure. E se cercate rimane sotto il sedile, cioè guardi, al computer c'è già, ce n'è una precisa, che c'è il cestinetto e il bauletto di dietro. E costa adesso, quella lì costa 600 e rotti euro. E io l'ho pagato la metà, ti puoi immaginare. No, della lunghezza, quando vedo una batteria lunga, cioè non penso a una piombo che di solito sono rettangolari, ma a litio. Magari il venditore non sapeva cos'era, ci ha messo piombo, invece a litio, chi lo sa? No, già c'è il piombo. Il fatto che è lunga non significa niente. Sotto da Dalmo ce n'è una che c'ha batteria al piombo. È lunga, ce ne sono anche più corte, ce ne sono a metà di quelle che ho io. A me è molto lunga, capito? Rimane quasi sotto della moltiplica e sotto il sedile, tipo immaginate, è lunga, capito? Invece io ho visto che sono a metà da sedile alla moltiplica, capito? Invece la mia è tutta completa, lunga. E non l'hai provata per vedere quanto ti dura, cioè che anche andando piano, quanti chilometri riesci a fare? No, ho fatto qualche giretto così, qualche mattina, qualche sera, già fra, qua torno in casa, non è che mi allontano, no, certo, devo prendere pratica ancora, non mi azzardo, no. Per cui cioè, bruci, e mi cammina quella roba, cioè, bruci, ma cammina un bemmi, se pedali, cammina un bemmi, e per cui devo mettere l'equilibrio dritto, per non sbandare, capito? E l'ho provata qua, cosa avrò fatto? 10, 12 km, non di più, e ancora carica la batteria. Sì, solo che le batterie al piombo hanno una durata, una poca durata, capito? Una longevità di vita, perché se no sono costantemente ricaricate, non sopportano molto le scariche profonde. Come quelle delle macchine, quando lascia la macchina un po' ferma più di tanto, se ne muore e poi c'è la butti, non c'è niente da fare. E così. Neanche una bella nuotata, niente, adesso che c'è l'acqua calda ti fai 2-3 ore di nuoto. Adesso che inizia la stagione estiva, vabbè, sono in ponte perché mi devono dire cosa ho agli occhi, cosa devo fare, se devo operare il laser, se non devono operare, se devo pigliare medicine, boh. C'è un problema un po' alla vista e non vorrei stare a mezza estate con la benda sugli occhi, no? E poi col caso è meglio non farmi di quelle cose, mi devo aspettare a settembre, sennò per farti male col caso, perché infatti rischiano un po'. E infatti? Un attimo Marco, dai, io chiudo, là. Io ringrazio la chiacchieratina, anche se breve, però fa sempre piacere, dai. Buon presumento Marco, saluto di casa. Altrettanto a Gianfranco, sentiamo eventualmente domani se coincide. Buon proseguimento e grazie per la chiacchierata. Vai Marco. Cappa Giomari. Io adesso vado a vedere il telegiornale in fretta, ho sentito che qualcuno ha rinunciato, non so, elezioni anticipate, o forse il candidato che si era presentato si è già ritirato, non lo so, e infatti lo voglio sentire, dai. Gianfra, lo stesso per te, da. Chiudo subito, vado a vedere questo telegiornale, voglio sentire, ok? Sentiamo quando capita, anche domani, d'accordo? Ok, d'accordo, tanto io già lo sai, tengo sempre in ascolto, anche se ho lo scorso un po' alto per evitare che disturbi, però di norma lo tengo sempre acceso. Ciao Gio Maria, buona serata, buona cena, perché anch'io vi sono. Insomma, sono le 8, sì. E quindi anche io scappo via. Ciao a tutti, anche chi mi ascolto, buona serata, alle prossime, ciao Marco. Buonanotte, ciao. Ciao, ciao a tutti, ciao ciao.